E iniziamo quest'oggi una nuova trasmissione che avevamo preparato con la compagna e il compagno che adesso appunto la condurranno da tempo e quasi non so a prevedere, ma non abbiamo queste capacità, è stato un caso quello che stava succedendo. In realtà era una trasmissione utilizzando questi due compagni, che sono degli storici africanisti, per dare uno sguardo più attento sulle realtà dell'Africa, in particolare del Nord Africa, rispetto alle tensioni, alle dinamiche che appunto vivono in questa fase, cercando di rintracciare le origini, i motivi delle contraddizioni che questi paesi vivono, partendo dall'esito dei processi di liberazione nazionale che appunto intorno agli anni 60 si sono più o meno sviluppati ovunque in queste aree. Poi chiaramente in questi giorni è esplosa due paesi, Tunisia e Algeria, di cui la Tunisia da un paio di giorni sta su tutte le pagine dei giornali, anche perché c'è stato addirittura probabilmente un cambio di regime o comunque qualcosa, un crollo del regime. Ben Ali è dovuto scappare, addirittura stamattina è arrivata a Jeddah dopo che la Francia e anche l'Italia gli hanno negato l'ospitalità, il loro maggiore alleato, come un elemento, il cinismo della diplomazia, no? La Francia, che è diciamo il paese che ha costruito questo soggetto, fino a ieri l'ha appoggiato, oggi gli nega, e anche l'Italia, vabbè. Ma quindi parleremo anche delle vicende dell'oggi, però proprio per, come diciamo prima, durante la rassegna stampa, per sfuggire a questa dittatura della notizia, cioè che bisogna andare presso all'emergenza, ciò che succede, e poi dimenticare l'analisi delle contraddizioni quando non è più emergenza, e noi vorremmo invece dare il contributo di conoscenza, di comunicazione, perché ci sono delle ragioni che permettono di capire poi gli eventi che accadono, o perlomeno di darne una spiegazione, quindi sviluppare il pensiero critico, e dunque questo faremo adesso appunto. Quindi parleremo sicuramente di quello che sta succedendo in Tunisia, ma non da un punto di vista di cronaca, anche perché i fatti sono talmente in evoluzione in queste ore che Ghannouchi, il primo ministro, che ha preso ad interim la presidenza perché Ben Ali è scappato, non si sa bene che cosa sta succedendo. Ci sono ancora, nella notte pare sono successe tutti i, diciamo le città tunisine sono state ancora in preda a movimenti, ad assalti, soprattutto ai negozi, ai grandi complessi che erano proprietà della famiglia di Ben Ali. E va bene, insomma, quindi daremo uno sguardo anche a ciò che succede, ma con un'attenzione di cercare di dare gli strumenti per capire dove affondano le radici di queste contraddizioni che sono esplose in Tunisia e parte anche in Algeria, con carattere di insorgenza veramente. Bene, ci prendiamo un brevissimo stacco musicale e poi diamo la parola ai due compagni. Allora, ecco qui, presentiamo i due compagni, sono due africanisti, storici africanisti, che presentiamo, ecco, Anthony e... Ciao a tutti, ciao. Sono Anthony e niente, praticamente cominciamo questo percorso oggi, che coincide con quanto avvenuto nel caso della Tunisia, con un percorso in realtà di approfondimento che tenterà di poi elucidare anche ragioni profonde di conflitti che si sono prodotti in Africa, nel continente africano, tra gli anni 60 ed oggi. Naturalmente non sono solo, perché non potrei coprire da solo tutto l'intero continente, sono qui appunto con un'altra compagna, Serena. Buongiorno a tutti, salve, sì. Nel corso di questa trasmissione sicuramente tratteremo dei temi, diciamo, più disparati, sempre in un'ottica storica di approfondimento di quelle che sono le maggiori cause e le conseguenze principali che si sono poi prodotte nel continente africano, dando sicuramente uno sguardo molto, cioè dando un interesse comunque a quelle che sono state le guerre di liberazione, a quelli che sono stati i principali discorsi politici che si sono prodotti comunque nel continente, E quindi sì, oggi partiamo con la Tunisia e quindi passo per questo la parola ad Anthony che comincerà questa puntata. Allora, naturalmente, come diceva prima Salvatore e come ha ribadito durante la rassegna di stamattina, non ci soffermeremo tanto sulle informazioni di carattere cronachistico che appunto sono abbastanza evidenti. Ben Ali ora si trova a Jeddah, comunque vi è stato un processo di, per farlo proprio in maniera sintetica, vi è stato un processo di una mobilitazione costante, che una sorta di scintilla che si è prodotta a partire dal 17 dicembre, quando appunto a Sidi Bouzid, questo ragazzo di 26 anni, universitario, che poi faceva l'ambulante, una volta fermato dalla polizia tunisina, gli è stato confiscato il materiale, insomma la roba che doveva vendere, questo ragazzo si è tra virgolette immolato bruciandosi vivo. Da lì in poi è cominciato un percorso di protesta che si è diffuso in tutto il territorio nazionale della Tunisia e che ha portato alla ribalta contraddizioni interne, da una parte ai partiti di opposizione, da una parte, dall'altra al regime di Ben Ali, che credeva forse di poter, come è successo già in passato e in altri paesi del Nord Africa, sedare il tutto attraverso una forte repressione e poi in seguito delle concessioni di carattere socio-economico. In realtà non è stato così, Ben Ali è stato costretto alla fuga. Adesso alcune delle nuove prospettive ci si pongono davanti. Chi da una parte prospetta un nuovo golpe, come è avvenuto all'epoca di Ben Ali nell'87, ricordiamo un golpe, ne parleremo dopo, un golpe sostenuto comunque da alcune potenze occidentali, in particolare l'Italia e la Francia. Chi invece prospetta un processo di riconciliazione nazionale con alcuni partiti all'opposizione che avrebbero dovuto o dovrebbero comunque prendere maggiore visibilità in un contesto di cosiddetta democrazia pluripartitica, e chi invece prospetta una emancipazione vera del popolo tunisino attraverso un maggiore protagonismo di quelle spinte dal basso che comunque, ricordiamolo e lo ricorderemo durante questa ora di trasmissione, si sono già evidenziate nei decenni passati con alcuni episodi puntuali che non hanno mai portato in realtà ad un percorso coerente. Questo c'è da ammettere, anche per un forte regime che lo ha sempre tentato di soffocare qualsiasi tipo di rivolta spontanea avvenuta anche non solo a Tunisi ma anche nel resto del paese. Quindi queste sono le tematiche che affronteremo. Anzitutto bisogna comprendere una cosa: questa mobilitazione ci si è chiesto molto spesso tra noi compagni, anche appunto in assemblee interne, se era una mobilitazione promossa da alcune soggettività politiche in particolare. La risposta che possiamo dare è naturalmente provvisoria, visto che le informazioni che possiamo avere oggi sul caso, sulla questione tunisina, sono informazioni che ci vengono dai dissidenti tunisini che si trovano in Europa, alcune agenzie di stampa che vanno sempre prese con le pinze. Quindi quello che possiamo fare noi solo è fare cercare di raccogliere tutte queste tracce e collegarle con quanto avvenuto in passato e con le realtà politiche tunisina e della società tunisina, che in passato si sono mostrate come delle protagoniste della logica politica, sia parlamentare che extraparlamentare. Anzitutto quindi quello che possiamo dire con certezza è che nessun partito politico attualmente in Tunisia si può definire, può autodefinirsi come protagonista di questa rivolta. Perché? Perché in realtà l'unico partito che ha mostrato una tendenza diciamo conflittuale nei confronti del regime di Ben Ali e non di dialettica politica è appunto questo piccolo partito, seppur significativo, il partito degli operai comunisti tunisini, il cui leader si chiama appunto Hammam Hammami, che ancora adesso si trova detenuto nelle carceri di Ben Ali, nelle carceri del regime, anche Ben Ali ormai a Jeddah, e che si è mostrato come l'unica soggettività partitica in grado di, o comunque che abbia avuto il coraggio di contrastare effettivamente l'attività delle forze di polizia tunisine attraverso una dialettica con la popolazione, con le classi anche più povere. Altri partiti dell'opposizione ve ne sono: vi è l'ex partito comunista, oggi si chiama Ettajdid, che in arabo significa rinnovamento, era l'erede appunto del partito comunista tunisino degli anni 30, un partito comunista che aveva adottato un'ottica filosovietica all'epoca, ma che dopo essere stato, tra virgolette, cacciato dal panorama politico istituzionale da Bourguiba, aveva abbassato sostanzialmente la cresta e aveva adottato una logica maggiormente dialettica nei confronti del potere costituito, un partito che proprio per questo non aveva più mantenuto quella spinta propulsiva dei primi anni, non era riuscito a far convergere attorno ad esso le differenti forze dell'opposizione laica tunisina. Abbiamo poi non possiamo dimenticare i movimenti cosiddetti islamisti o comunque partiti che hanno tentato in Tunisia, come è avvenuto anche per altre realtà del Nord Africa, del Maghreb e del Mashrek, hanno tentato di costruire un cosiddetto Stato islamico, quindi e reinvertendo quella rotta socialisteggiante o comunque secolarizzante sicuramente, che dal momento dell'indipendenza in poi ha caratterizzato i regimi, perché purtroppo adesso dobbiamo parlare per forza di regimi del Nord Africa nel post indipendenza. La variante islamista vorrei approfondirla un attimo per 5 minuti proprio, perché bisogna anzitutto rispondere alle provocazioni, perché solo di provocazioni si tratta, fatte dal nostro caro ministro Frattini, che nel momento delle prime repressioni di Ben Ali, degli anni appunto dalla fine di dicembre, inizio gennaio, subito si era schierato a favore naturalmente del regime benaliano e aveva detto che l'Italia era vicina al governo di Ben Ali, alla presidenza di Ben Ali, per contenere il pericolo islamista. Quindi su questa risposta dobbiamo anzitutto avanzare due premesse: da una parte la vicinanza che l'Italia ha sempre avuto nei confronti di Ben Ali, dall'altra appunto il ruolo che l'islamismo ha avuto dagli anni 80 in poi in Tunisia. Per quanto riguarda la prima questione, quindi la vicinanza tra l'Italia e Ben Ali, dobbiamo ricordare che il golpe che c'è stato nell'87 in Tunisia, che ha portato alla fine del regno, del vero e proprio regno di Bourguiba, che era il capo, diciamo il padre della patria tunisino, è appunto un golpe che in realtà non è stato tanto provocato dalla Francia all'epoca, che dovette quasi in realtà sostenere silenziosamente un'iniziativa che veniva proprio dal nostro caro governo craxiano dell'epoca, dell'85, con ministro degli esteri niente poco di meno che Andreotti, naturalmente il redivivo Andreotti. Questo governo prese contatti all'epoca, nell'85, con i servizi segreti algerini, tramite appunto il SISMI di Martino dell'epoca, per sostenere che cosa? Per sostenere la caduta pacifica di Bourguiba in Tunisia, che dall'inizio degli anni 80 stava attraversando una fase di declino sia dal punto di vista dei rapporti con le opposizioni interne, che non riusciva più a contenere come in passato, sia dal punto di vista dei rapporti con le potenze europee. Una Tunisia che all'epoca era tra virgolette una potenziale preda dell'Algeria. Algeria che in quel momento si sentiva invece circondata da che cosa? Da una parte da un'alleanza tra la Libia e il Marocco, quindi la Libia di Gheddafi e il Marocco di Hassan II, l'imperatore, che tentava, che aveva accerchiato dal punto di vista geopolitico l'Algeria, e una Francia che era consenziente o comunque non ostile a questa sorta di unione che ci fu tra la Libia ed il Marocco. L'Algeria quindi in quel caso decise di diversificare la propria dipendenza dall'Europa, allontanandosi leggermente dalla Francia e avvicinandosi appunto al governo italiano. Ricordiamo che la visita di Craxi nell'85 in Algeria fu la prima visita di un presidente del Consiglio italiano nell'Algeria post indipendente, quindi dal dopo 62, un evento storico. Le contrattazioni segrete che poi abbiamo potuto ricostruire grazie anche alle rivelazioni del capo del SISMI Martino durante appunto poi i vari verbali della commissione strage, insomma, che si sono costituite progressivamente in Italia negli anni e nei decenni successivi, portarono quindi alla decisione di far avanzare Ben Ali, un uomo dell'apparato tunisino, un uomo che era stato appunto sì, un poliziotto a capo delle forze militari della difesa tunisine, che poi aveva intrapreso anche la carriera politica come ministro dell'interno. Ben Ali che arriva al potere quindi nell'87 grazie a un cosiddetto golpe bianco, si dice, o anche golpe medico, si dice così perché in realtà ci fu Bourguiba all'epoca soffriva di crisi di senilità e ci fu questo famoso certificato medico segnato, firmato da alcuni medici, tra cui il medico personale di Ben Ali, che sancirono appunto l'incapacità mentale, quindi di intendere e di volere, di Bourguiba, che fu esiliato a Monastir, insomma, una località tunisina, quindi all'interno del proprio paese, e da quel momento in poi comincia quindi questa famosa dittatura di Ben Ali che oggi sembra volgere al termine. Quindi i rapporti, ritorniamo appunto alla questione, tra Italia e Tunisia sono stretti, soprattutto con Ben Ali, da sempre un alleato molto vicino all'Italia. La funzione di Ben Ali quale doveva essere secondo il governo italiano e anche secondo il governo algerino? La funzione di Ben Ali era quella di contenere da una parte il cosiddetto pericolo islamista, dall'altra mantenere buoni rapporti con le potenze europee, con accordi di partenariato economico. Naturalmente, ricordiamolo, la Tunisia non è un paese, diciamo, pieno di risorse come per esempio l'Algeria, no? Non ha giacimenti ha solo qualche giacimento minerario che sarà infatti fonte di lotte importanti, soprattutto nel 2008 con la rivolta di Gafsa, di cui parleremo magari successivamente. È un paese che si basa principalmente su rapporti economici del settore terziario, quindi che ha bisogno di esportare, ha bisogno di libero mercato, almeno secondo l'ottica del regime dell'epoca e delle potenze europee. Pericolo islamista, questo spauracchio del pericolo islamista. La Tunisia forse è l'unico paese nel Nord Africa che possiamo definire peculiare per quanto riguarda il pericolo islamista, come appunto viene definito dalle autorità dell'epoca. Perché? Perché in realtà i movimenti islamisti all'interno della Tunisia non sono movimenti che si contrappongono in maniera netta alle autorità governative, alle autorità politiche. Non stiamo parlando del movimento, per esempio, della Fratellanza Musulmana degli anni 60 in Egitto, non stiamo parlando delle varie cellule islamiste in Marocco che tentavano una sovversione del potere, o in Algeria del FIS degli anni 90, degli anni 80-90. Qua stiamo parlando di un movimento che è nato, vede come suo leader un tale Rashid Ghannouchi, per niente parente con appunto il attuale presidente ad interim della Tunisia. Un movimento che però è sempre stato caratterizzato da un forte pragmatismo politico. Non ha mai prospettato la costituzione di uno Stato islamico, non ha mai prospettato un'ottica, come dire, assolutista all'interno del panorama politico. Il movimento islamista ha sempre riconosciuto anzitutto l'esistenza in Tunisia di differenti posizioni politiche e la necessaria coesistenza di queste forze politiche per la costituzione, naturalmente sì, di una società maggiormente islamica, ma non di carattere rivoluzionario. Quindi il pericolo islamista in realtà in Tunisia era un pericolo abbastanza nascosto, velato, che era più che altro percepito dalle potenze europee in un'ottica di conservazione dello status quo in Tunisia. Questa quindi è la questione islamista che era necessario affrontare, soprattutto per comprendere come alcune dichiarazioni siano in realtà piuttosto fallaci e soprattutto manchevoli di una prospettiva politica anche strategica dell'Italia di lungo periodo, se proprio dobbiamo metterci a discutere del pensiero della politica estera italiana. Però insomma, questo poi è un altro discorso. Forze politiche, o meglio, queste mobilitazioni, quindi torniamo un attimo al discorso delle mobilitazioni di oggi. Sì, è vero, non ci sono degli attori politici protagonisti, non vi sono dei leader carismatici che sembra abbiano che avrebbero potuto catalizzare l'attenzione nei confronti delle masse che hanno protestato in tutto il paese. È invece un movimento generalizzato che, sorprendentemente, anzitutto per la storia della Tunisia degli ultimi 30 anni, non si è caratterizzato solo con delle rivolte nella capitale. I partiti all'opposizione tunisini, come anche alcuni le ONG o comunque le varie leghe dei diritti dell'uomo che proliferano in Tunisia da decenni, hanno sempre attuato una sensibilizzazione, o comunque hanno sempre concentrato i loro sforzi sulla società, tra virgolette, civile, perché poi il discorso della società civile insomma, è ampio, evitiamo di affrontarlo, sì, sarebbe proprio da affrontarlo in una puntata a parte, perché sembra appunto un soggetto politico come tanti, in realtà appunto, come già alcuni teorici ci hanno dimostrato, può essere anche definita come un quarto braccio del potere per cooptare le spinte dal basso. Dicevamo, la società, appunto le mobilitazioni non si sono sviluppate solo nella capitale tunisina, e l'impreparazione delle forze politiche di opposizione tunisine a questa mobilitazione è dovuta anche al fatto che loro non hanno acquisito negli anni passati un'esperienza con le manifestazioni e le lotte che dal basso, comunque in alcuni casi sporadici, si sono prodotte in Tunisia negli ultimi anni. L'esempio forse più lampante è la cosiddetta rivolta del bacino minerario di Gafsa. Gafsa è una località che si trova nel sud-ovest tunisino, una località dove appunto vi è la compagnia, un bacino minerario di fosfati gestito da una compagnia pubblica tunisina, quindi partecipazione intera da parte dello Stato tunisino. Una compagnia questa che, come per esempio in molte realtà del meridione italiano, ha assorbito da tempo, da decenni, tutta la mano d'opera locale. Nel 2008 che cosa è avvenuto? È avvenuto che un concorso pubblico, come se ne erano prodotti già in passato da parte della compagnia di fosfati, un concorso pubblico indetto alla compagnia e sulla quale comunque si appoggiavano molte speranze, le speranze della popolazione locale tunisina, aveva portato dei risultati che considerare fraudolenti, insomma, è un eufemismo, e le denunce da parte della popolazione locale sono state molto forti. Si denunciava appunto il fatto che questi posti erano stati garantiti alle elite più ricche della regione, senza appunto dimenticando invece la tradizione di quella compagnia che assoldava e che reclutava, che comunque aveva dato lavoro a famiglie anche molto disagiate della regione. Ricordiamo, una regione che soffre ancora oggi di un tasso di disoccupazione doppio rispetto alla media nazionale. Arriviamo più o meno sul 30%, naturalmente queste sono tutte cifre ufficiali, poi appunto bisogna vedere quanto rispecchino la realtà. È cominciata che cosa? Quindi una mobilitazione da parte degli operai del bacino minerario, che speravano per esempio di veder impiegati i propri figli o comunque i figli delle famiglie allargate presenti nella regione. Si sono creati dei comitati di sostegno locale anzitutto alle mobilitazioni, che, ricordiamolo, erano comunque mobilitazioni di carattere pacifico, mobilitazioni che si concretizzavano attraverso manifestazioni di piazza, attraverso sit-in, scioperi della fame. Quindi senza ancora non vi era, comunque non vi è mai stato per questo sciopero, un intervento di carattere diciamo violento da parte della popolazione che protestava. La protesta si è estesa poi in tutto il paese, cosa abbastanza rara per il caso tunisino. Si è estesa attraverso la costituzione di un comitato nazionale di sostegno alle lotte degli operai, comunque dei minatori della regione del Gafsa, e non solo. Questa lotta si è estesa anche grazie alla diaspora cosiddetta tunisina, ovvero a quella crescente migrazione che in Tunisia dall'epoca coloniale in poi è arrivata a riempire, tra virgolette, le metropoli europee, in particolare nella Francia, con due regioni in primis, ovvero Nantes e la regione del Parisien, quindi di Parigi. Quindi, grazie a questi comitati di sostegno, la rivolta locale di Gafsa, dei minatori di Gafsa, è riuscito ad ottenere anzitutto un eco internazionale, grazie soprattutto alla diaspora tunisina, insperato. Stiamo parlando davvero di una regione molto piccola, cioè già la Tunisia in sé ha appunto una superficie non molto estesa, non stiamo certo parlando dell'Algeria o dell'Egitto, e di una popolazione all'incirca di 10-12 milioni di abitanti in tutto. Quindi stiamo parlando di una rivolta locale, una rivolta però che ha mostrato, quindi, da una parte l'importanza della diaspora tunisina nel diffondere un messaggio di protesta, con questo comitato che aveva sede in Francia, che ha sostenuto anche materialmente le proteste e le manifestazioni. Dall'altra, questa manifestazione, queste mobilitazioni che sono durate mesi, ricordiamolo, più o meno dal gennaio del 2008 fino al giugno dello stesso anno, hanno mostrato le carenze della cosiddetta opposizione legale, istituzionale, nel sostenere le lotte che dal basso si producevano, si erano prodotte in Tunisia. Nessun partito istituzionale dell'opposizione aveva sostenuto questa lotta, considerandola quasi come una lotta tribale, una questione tribale tra, appunto, interna alla regione, non scorgendo le prospettive anche politiche che vi erano all'interno di questa lotta, caratterizzandola, definivano solo una lotta di poveri per ottenere un maggior salario. Invece una politicizzazione in quel momento c'è stata, e lo hanno mostrato anche le forme di auto-organizzazione che si sono poste in essere durante la battaglia. L'unico partito che sostenne direttamente, che fu protagonista, bisogna dirlo, del movimento di protesta fu appunto il Partito degli Operai Comunisti di Tunisi, un partito che aveva che si distingueva dal più vecchio partito comunista tunisino, ma che per pratiche ha saputo ritagliarsi uno spazio importante soprattutto nelle classi proletarie e sottoproletarie tunisine. Questo partito, quindi questa lotta, questa mobilitazione, appunto parlavamo di forme di auto-organizzazione, perché questa mobilitazione queste persone riuscirono a costituire dei comitati e a gestire indipendentemente dalle forze di opposizione e dai sindacati, di cui parleremo tra breve, la negoziazione con le autorità locali, con le autorità del regime, a gestire i movimenti di tensione con le forze dell'ordine, quindi la polizia, le forze di polizia in primis della Tunisia, e a partire con dei negoziati che in realtà poi non portarono a nulla, a causa appunto della chiusura che ci fu dal punto di vista politico, sia da parte di Ben Ali e del regime, sia dai dirigenti della Compagnia Nazionale di Fosfati di Gafsa. Le repressioni furono forti, la regione fu completamente assediata dalle forze di polizia, accerchiata, principalmente nella località di Gafsa, dove c'era questo bacino minerario, e nella città di Redayef, che era la prima città, il punto di riferimento istituzionale anche a livello amministrativo della regione. Le condanne furono importanti per i leader, tra virgolette, o coloro che erano stati delegati dalle collettività in protesta, in movimento, per gestire la negoziazione nei confronti dei posti di lavoro da ottenere. E da questo punto di vista non ci fu in realtà un seguito alla protesta, nel senso che la repressione che si produsse nei mesi seguenti, con anche torture all'interno delle carceri di un'unica donna che faceva parte della delegazione, che poi ha denunciato successivamente questi atti, portarono in realtà le organizzazioni di opposizione a fare una sorta di mea culpa per non aver sostenuto queste lotte da una parte, ma allo stesso tempo a non tentare di riprendere quel discorso di politicizzazione che in alcune regioni, come appunto non in alcune regioni periferiche dello Stato tunisino, si stavano producendo. Cosa importante da segnalare di questa rivolta, ed è importante perché queste conclusioni sono da fare, ci danno degli insegnamenti anche su quello che sta avvenendo adesso, è la gestione, o meglio l'atteggiamento delle forze sindacali in Tunisia. Il sindacato in Tunisia è nato negli anni 40, si chiama UGTT, Union Générale des Travailleurs de Tunis, quindi Unione Generale dei Lavoratori Tunisini. Ed è un sindacato che ha giocato un ruolo storicamente importante nel processo di indipendenza tunisino. Perché? Perché è riuscito a collegare le istanze socio-economiche dei lavoratori tunisini al sentimento anticoloniale che negli anni 40 comunque era presente all'interno del protettorato francese di Tunisi. Un sindacato che purtroppo, una volta salito al potere Bourguiba, è stato cooptato dal regime per mantenere lo status quo, per controllare le forze, le masse comunque tra virgolette lavoratrici, e per sostenere il regime attraverso un'opera di legittimazione costante nei luoghi di lavoro. Un sindacato di Stato è diventato? Praticamente sì, è stato praticamente nazionalizzato. Oggi questo sindacato e la rivolta di Gafsa e l'atteggiamento avuto dal sindacato negli anni, appunto nel 2008, lo dimostra perfettamente, è letteralmente spaccato in due. Tra chi? Tra un quadro burocratico nominato direttamente dal regime, dall'ex regime di Ben Ali, come anche prima da Bourguiba, da una parte, e una base militante che invece ha maggiori contatti con i processi, con le proteste, le mobilitazioni che sono avvenute in Tunisia, città e non solo, quindi anche nella periferia del paese. Questa base militante, proprio nella manifestazione, nella rivolta cosiddetta, nella mobilitazione di Gafsa, ha mostrato tutto il suo protagonismo in contrapposizione alla leadership del sindacato nazionale. Perché questo? Perché in realtà, e lo si vede perfettamente da alcuni report, soprattutto dalle cause e dai processi verbali che possiamo oggi consultare fortunatamente ancora su internet, questi sindacalisti furono inizialmente allontanati dall'UGTT perché considerati appunto, come dire, il loro atteggiamento era stato considerato dai quadri come non conforme alla etica o comunque al comportamento che l'UGTT voleva adottare nei confronti della questione di Gafsa. Successivamente, quando la mobilitazione si è estesa a tutta la regione, quando ha avuto poi l'appoggio e il sostegno di un comitato nazionale e poi ancora del comitato di sostegno della diaspora da parte organizzato dalla diaspora tunisina all'estero, lì questo sindacato ha dovuto fare marcia indietro, riassumere questi sindacalisti che hanno continuato la loro lotta. Quindi già, ecco, scusa, una domanda, ecco, perché su questo alcuni giornali letti in questi giorni, non mi ricordo dove l'ho letto, qualcuno faceva un'ipotesi tipo Solidarnosc in Polonia, ecco, perché anche lì ha avuto un ruolo anche lì il sindacato di Stato, questa rottura all'interno. Ecco, ci sono similitudini oppure differenze rispetto a questo dato che è molto importante e che credo, da quanto dicevi tu, che poi c'entra comunque in qualche modo in questa rivolta di oggi? Assolutamente, anzitutto perché le similitudini quali sono? Allora, anzitutto le similitudini sono nelle ambizioni dei leader sindacalisti tunisini dagli anni 80 in poi. Ora non vi farò i nomi, insomma, senza entrare proprio nel dettaglio. Comunque la tendenza di alcuni leader del sindacalismo dell'UGTT, comunque del sindacato dell'UGTT, era quella di costituire poi dopo all'atero un partito che loro definiscono appunto in francese travailliste, quindi un partito fondato su il lavoro e fondato sulle classi lavoratrici che facevano parte, che erano state inquadrate dal sindacato, un partito che avrebbe potuto quindi avere un nuovo protagonismo all'interno della società tunisina. Questi progetti in realtà non si sono mai poi avverati, soprattutto per il controllo che il regime dall'alto ha sempre effettuato sul sindacato. Il problema del sindacato dell'UGTT è proprio questa frattura. Non vi è una coesione, o meglio, si è dispersa quella coesione che negli anni 40 e 50 aveva caratterizzato l'attività del sindacato tunisino, un sindacato molto fortemente politicizzato, che però ancora oggi mantiene una tradizione di militanza dal basso forte, e le dimostrazioni, il sostegno che alcuni sindacalisti di base dell'UGTT hanno, il sostegno che hanno dimostrato durante queste manifestazioni di protesta è emblematico del sentimento, diciamo, sindacalista, più che della struttura, un apparato che purtroppo è sostanzialmente al servizio del potere autocratico, prima di Ben Ali, e ora vedremo di chi arriverà a gestire, insomma, tutto l'apparato di controllo della società tunisina. Quindi questo è in riferimento alle organizzazioni sindacali. Altra questione importante, sempre in riferimento alle manifestazioni di oggi, che ci possono permettere di comprendere meglio anche le dinamiche di protesta e di mobilitazione che la Tunisia ha, come dire, attivato da qualche anno. Appunto, queste mobilitazioni non sono qualcosa di sporadico, non sono un qualcosa di incidentale, come alcuni media ci hanno fatto appunto credere, come stanno dicendo ancora stamattina con degli articoli, come se la popolazione fosse semplicemente stanca e basta. Non è così, ci sono dei processi che hanno portato a questo. La rivolta di Gafsa, di cui vi parlavo prima, è la dimostrazione che vi era un malcontento che aveva tentato ed era riuscito in parte a rompere il silenzio nei confronti dell'autocrazia di Ben Ali attraverso delle forme inedite di auto-organizzazione. Allo stesso tempo, già precedentemente vi erano state delle manifestazioni delle, come dire, dei momenti di protesta che però avevano caratterizzato quella elite professionale che però che non aveva il consenso delle masse. Ricordiamo per esempio quello che è avvenuto 5 anni fa, nel 2005, in Tunisia. Principali attori della protesta in quel momento erano appunto i cosiddetti ordini professionali. Stiamo parlando dell'ordine degli avvocati, dell'ordine dei magistrati e dell'ordine dei giornalisti. Questi tre ordini naturalmente avevano appunto una base elitaria, questo è scontato, insomma, come in Italia, lì a maggior ragione, però tentarono per la prima volta dopo anni mettere tra virgolette alle corde il regime attraverso una via legalitaria. Non stiamo dicendo naturalmente che condividiamo questo tipo di protesta, anche perché i fatti lo dimostrano, è fallita in maniera proprio amara, perché dopo pochi mesi entrambi, tutti e tre questi soggetti politici furono costretti ad abdicare, diciamo, nella loro lotta nella loro mobilitazione. È però indicativo di una mobilitazione che si è sviluppata attraverso solo ed esclusivamente gli ordini professionali, che rivendicavano e che avevano delle richieste specifiche solo ed esclusivamente ai loro ordini professionali e che per questo non ebbe mai il sostegno da parte della popolazione. L'unico sostegno, comunque l'unico fattore positivo di questo tipo di lotte fu che cosa? Fu un irrompere un tabù, che era quello appunto del regime di Ben Ali, che poteva essere criticato, naturalmente a spese, con dei costi importanti. L'ordine dei giornalisti protestava per la mancata indipendenza nella loro attività, l'ordine dei magistrati lo stesso. È una specie di mincul pop, per dirla, sì, come in Italia, di ufficio di controllo della comunicazione. Assolutamente. Infatti proprio nel 2005 in Tunisia si doveva svolgere una seconda tappa del meeting internazionale della società dell'informazione. La prima tappa era stata nel 2003 a Ginevra, è un meeting internazionale organizzato questo dall'ONU, dove si sarebbe dovuto discutere, paradossalmente proprio in Tunisia, nella sua seconda fase, della libertà d'espressione. È inutile ricordare appunto lo stato dell'informazione in Tunisia negli ultimi decenni, cose abbastanza rinomate da questo punto di vista. Anthony, una domanda. Sappiamo che in Tunisia ci sono state altre rivolte relative comunque all'aumento dei prezzi dei beni primari. E qual è stato l'atteggiamento da parte comunque dei soggetti istituzionali, sindacati, partiti politici, e se c'è stato comunque un atteggiamento di sostegno oppure di silenzio, di autoritarismo? Cosa è successo principalmente? Quali sono state le principali differenze comunque nell'atteggiamento rispetto al presente? Allora, innanzitutto ricordiamo che molto spesso oggi leggiamo sulla stampa definire comunque questa mobilitazione come la rivolta del pane. Questa è una terminologia diciamo del mito del buon selvaggio, che viene fatta appunto un po' razzista, anche uno di questi poveracci che comunque hanno solo bisogno di pane. E questa non è la prima volta, insomma, di rivolta del pane si parla per l'Egitto nel 77, si parla anche per la Tunisia in due casi in particolare. Uno avvenuto nel 1978 e un altro avvenuto nel 1984-85. L'Algeria dell'88, si parla. L'Algeria dell'88. Insieme, quindi vi è un'ottica razzista nella definizione di queste mobilitazioni come rivolte del pane. Certo, avevano un carattere prettamente socio-economico, che non è stato possibile convogliare poi in una prospettiva politica, naturalmente questo perché si dovette fare i conti con un regime con una repressione molto, molto forte, e anche perché queste rivolte hanno sempre attivato una dinamica di do ut des con lo Stato e con il regime tunisino, alimentata dalle forze politiche all'opposizione, questo bisogna dirlo. Piccolo esempio, 1984-85, la Tunisia in quel momento attraversava un periodo di crisi, come appunto tutto il Medio Oriente, per l'abbassamento dei prezzi, la crisi petrolifera di quegli anni, e pensava di non poter più coprire il sostegno che dagli anni 60 lo Stato accordava ai beni di prima necessità per la popolazione tunisina. Naturalmente lì la Tunisia decise di tagliare sul settore economico più facile da tagliare, ovvero sui beni, sulle sovvenzioni ai beni di prima necessità. Il prezzo di questi beni di prima necessità, ricordiamolo, erano principalmente pane, pasta, zucchero, quindi farina anche, aumentarono più o meno del 100% in pochissimi giorni. Questo provocò una vera e propria sommossa popolare di carattere proletario e sottoproletario, cioè di persone che avevano una condizione economica di assoluta indigenza, portarono ad un blocco totale delle attività produttive per un periodo di tempo abbastanza rilevante. Qual era il problema di questa rivolta? Lo Stato, grazie anche alla cooptazione di alcune forze politiche dell'epoca, dell'opposizione, riuscì tra virgolette a reprimere col sangue questa rivolta e poi naturalmente tornò indietro nei provvedimenti che avevano visto scattare, che avevano provocato questa mobilitazione. Ora, se riflettiamo un attimo su questo tipo di mobilitazione, sull'atteggiamento passivo da parte delle forze politiche di opposizione, dobbiamo riflettere anche su quei percorsi che si sono prodotti in Nord Africa e anche penso nell'Africa subsahariana, e questo Serena ci può dare conferma, di mobilitazione forte che non ha trovato sostegno né nelle forze di opposizione dell'epoca, e quindi qui è importante riflettere sui limiti di queste forze di opposizione, che quindi non si ritrovano solo oggi nel 2010, ma che hanno purtroppo radici profonde, e allo stesso tempo sul mancato sostegno a livello internazionale, la prospettiva anche internazionalista che si poteva pensare di avere negli anni 80. E se facciamo un paragone per esempio con la situazione egiziana del 77, vediamo che la logica è sempre la stessa: vi è una rivolta di carattere socio-economico, lo Stato dopo una forte fase iniziale di repressione torna indietro sui suoi passi, perché ha tentato di forzare la mano, ha visto che non era possibile, quindi torna indietro sui tagli che aveva deciso di adottare. E pensiamo che oggi Ben Ali, quando inizialmente aveva pensato, dopo la prima fase di forte repressione, di concedere con il discorso del 14 gennaio, quindi di un giorno e mezzo fa, di concedere alcune agevolazioni alla popolazione tunisina, ricordiamo che aveva garantito, come poi si è prodotto dalla mattina successiva al discorso, il ritorno dei prezzi, comunque l'abbassamento dei prezzi dei beni di prima necessità, aveva garantito delle commissioni d'inchiesta per le violenze che la popolazione tunisina aveva subito, aveva garantito un maggiore pluralismo politico, una maggiore libertà di informazione. Forse Ben Ali in quel momento riteneva che, come in passato, la popolazione tunisina avrebbe, tra virgolette, ritirato, si fosse comunque rinchiusa, fosse ritornata nelle proprie case, quindi avesse lasciato le strade della città di Tunisi e delle periferie del paese, per ritornare appunto alla tranquillità e alla stabilità. Questo in questo caso non è avvenuto, e infatti una riflessione che dovremo poi fare anche nelle settimane successive sarà sulle prospettive che altre manifestazioni di malcontento, altre mobilitazioni che si sono verificate poi in Nord Africa, quali prospettive queste mobilitazioni potranno avere, perché le conseguenze della rivoluzione o comunque della ribellione, perché fino adesso ancora non possiamo parlare veramente di un processo rivoluzionario, sicuramente di una ribellione spontanea, quali conseguenze questa ribellione potrà avere a livello geopolitico internazionale, sia nei confronti delle altre realtà dell'Africa del Nord, sia poi nell'atteggiamento che i paesi europei e noi in primis, ovvero le collettività che dal basso tentano di fare qualcosa nel nostro caro Occidente, vorranno adottare per sostenere questo tipo di nuove prospettive. Ci prendiamo un breve stacco musicale. Sarebbe molto interessante adesso cercare di riflettere su quali potranno essere le possibilità comunque di rinnovamento e di cambiamento in seno comunque ai partiti politici, alle istituzioni che prenderanno piede comunque a partire dai prossimi giorni, magari dalle prossime settimane, comunque in seguito a quelli che sono stati gli ultimi eventi verificatisi in Tunisia in questi giorni. Ma no, assolutamente, perché abbiamo riflettuto fino adesso sui limiti di queste forze politiche nell'immediato e a livello negli ultimi decenni. L'atteggiamento delle forze partitiche cosiddette istituzionali, perché dobbiamo ricordare anzitutto che le forze partitiche presenti oggi nel panorama politico tunisino sono tutte considerate laiche. L'unica formazione che ha tentato a più riprese di ottenere legittimità istituzionale, ovvero il partito islamista di questo Rashid Ghannouchi, che non è mai riuscito ad ottenere legittimità o comunque riconoscimento come partito e quindi a candidarsi alle elezioni. Quindi da una parte abbiamo formazioni islamiste che proprio per questo, per il mancato riconoscimento, ha tentato una politica di alleanze con alcuni partiti laici, e qui torniamo al concetto di pragmatismo dell'islamismo tunisino, che è totalmente differente da quello per esempio algerino o appunto anche di altre realtà dell'Africa, no? Del nord e subsahariana, per esempio, penso anche al contesto sudanese. E in questo caso, al di là quindi di questo movimento, vi sono delle forze politiche che hanno dimostrato negli ultimi anni una fortissima, come dire, capacità di adattazione, di adattamento alle politiche del regime, adattamento che può anche essere definito come passivismo, perché pensiamo appunto al Partito Comunista tunisino, che abbiamo già evocato precedentemente. Il Partito Comunista tunisino, che nasce appunto negli anni 30, oggi ha subito un processo che potrebbe essere definito simile a quello del nostro Partito Comunista, nel senso che ha avviato una procedura di moderazione del discorso politico che lo ha portato oggi ad avere un altro nome. Anzitutto non vi è più la denominazione comunista all'interno appunto del nome del partito, si chiama il Tajdid, quindi il rinnovamento, e che adotta una politica, potremmo definire, di centrosinistra, quindi di sostegno alle classi più povere a livello discorsivo, cioè nella propaganda del partito, ma che nella sostanza non si è fatto leader delle mobilitazioni che si sono prodotte. Vi sono poi altri partiti interessanti, sempre comunque in un'ottica istituzionale, interessanti per la loro limitatezza, non per la loro capacità di mobilitazione. Vi è appunto il Partito dello Sviluppo Progressista, di questo Neguib Shebbi. Neguib Shebbi è stato un personaggio importante dello scenario politico tunisino, era appartenente al partito Neo-Destur, che è stato appunto il protagonista dell'indipendenza tunisina sotto Bourguiba, sì, di Bourguiba. Successivamente si è dissociato dal partito e proprio per questo è stato poi incarcerato più volte, e nell'ottica dell'opposizione è considerato un indipendente, quindi non possiamo dire che è cooptato dal regime, ma possiamo dire che è funzionale, è stato funzionale per molti anni al regime stesso, perché ha legittimato quasi il regime, che poteva in questo modo garantire l'esistenza di una personalità indipendente che lottava comunque all'interno del paese. Quindi era possibile, tra virgolette, lottare o comunque opporsi al regime. La sua attività è stata anche in certi momenti degna di nota. Vi è stato, per esempio, il movimento è stato uno dei protagonisti dello sciopero della fame di alcune personalità tunisine che è avvenuto qualche anno fa. Il problema è che non ha mai portato avanti un discorso capace veramente di mobilitare le masse da questo punto di vista. Poi vi sono alcuni partiti che si sono prodotti proprio negli ultimi anni, per esempio nel 2005 è nato questo partito quasi ecologista che si chiama appunto la Tunisie Verte, quindi la Tunisia Verde, un partito che ha fortissimi contatti con il Partito dei Verdi francese e che appunto proprio per questo ha spesso ricevuto delegazioni dei parlamentari verdi francesi in Tunisia, e che hanno sempre adottato un'ottica legalitaria all'interno della politica tunisina, un'ottica legalitaria che si è rivelata poi naturalmente fallimentare. Quindi in realtà non c'è una alternativa politica istituzionale? No, non possiamo, almeno dal mio punto di vista, forse è l'unico che si è attivato, bisognerà vedere poi, perché sappiamo oggi quanto sia difficile avere notizie sulle forze politiche tunisine, almeno fino a questo momento la copertura a livello informativo è stata davvero scarsa, quindi ogni volta per ottenere delle informazioni dobbiamo passare dalla diaspora tunisina, dobbiamo sentire alcune trasmissioni radio di collettivi indipendenti comunque che sono censurati all'interno della Tunisia stessa, che sono stati censurati, come per esempio Radio Kalima, che è una delle realtà tunisine molto attiva soprattutto presso la comunità di emigrati tunisini in Francia. Comunque è difficile capire il peso effettivo sulla società sulla base che un partito, per esempio, che si sta dimostrando efficace come il Partito degli Operai Comunisti di Tunisi potrà avere poi dopo. In futuro. Il problema è che oggi come oggi l'attività, ora quelli che oggi i giornali hanno definito come golpe, di Ghannouchi, ovvero il presidente del Consiglio, prima che era stato demissionato con tutto il governo da Ben Ali nel pomeriggio di ieri e che poi si è autoproclamato presidente ad interim fino a 9 elezioni, dovremmo vedere adesso chi e con chi deciderà di spartire, tra virgolette, la torta, se la popolazione tunisina glielo permetterà, naturalmente. Certo. Questa è sempre una prima premessa. Naturalmente il partito, ricordiamo per esempio che il Tajdid, questo ex partito comunista, durante le mobilitazioni degli ultimi giorni affermava che era necessaria una nuova coalizione di governo. Non è che diceva ok, è il momento di sovvertire le relazioni di forza all'interno del paese, vi è un contesto favorevole. Non è un partito che si è antagonista. Non è un partito antagonista. Quindi certo, questa è la domanda che faceva Serena rispetto alle strutture istituzionali come l'esercito, le forze di polizia, che ruolo potranno avere? Allora, il problema della Tunisia anche nei confronti dell'esercito è abbastanza complesso e soprattutto specifico rispetto ad altre realtà del Nord Africa. L'esercito non ha svolto in Tunisia, come per esempio nel caso algerino, un ruolo di liberatore nazionale, non ha svolto un ruolo di emancipatore dal gioco coloniale come per esempio anche in Egitto, quindi o meglio in Egitto non un emancipatore dal gioco coloniale, ma comunque di un progetto nazionalista che appunto con gli ufficiali liberi dagli anni 50 si era prodotto in Egitto con Nasser e con Neguib. Quindi non ha avuto negli anni successivi un ruolo di primo piano nel conservare lo status quo, né sotto Bourguiba né con un'accentuazione, in realtà con un piccolo cambiamento, una lieve trasformazione sotto Ben Ali, perché Ben Ali era un militare. Bourguiba da questo punto di vista ha sempre temuto l'esercito come concorrente per la presa del potere in Tunisia, tant'è che, come anche dicevano ieri alcuni compagni di Radio Kalima per radio, ha deciso di investire maggiormente proprio per il paese Tunisia, per il sistema paese, sulla istruzione e sull'educazione. Non per questo va esaltato, non è un panegirico oppure un'apologia di Bourguiba, era solo appunto per il mantenimento del proprio potere. Invece un ruolo fortissimo, importante all'interno del regime di Ben Ali è stato svolto dalle forze di polizia e dai servizi segreti. E possiamo dire che se oggi passiamo per esempio nelle strade del Cairo o appunto di non lo so io di Algeri, no? La presenza massiccia dell'esercito è tangibile anche per un europeo. Figuratevi per appunto un egiziano o un algerino. L'esercito ha un ruolo politico di spartizione tra virgolette del potere e proprio per questo deve essere ed è sempre stato tradizionalmente chiamato in causa nei momenti di principale tensione, quindi di passaggio per esempio da una leader o da un dittatore ad un altro. In Tunisia no, in Tunisia è tutto molto più silenzioso, gli stessi tunisini ti dicono che appunto non si può parlare perché è possibile appunto avere degli agenti in borghese all'interno di alcune strutture. Questo anche perché, e la storia ce lo dimostra, negli ultimi 10-15 anni, in quelle mobilitazioni che ci sono state, nel 2005 per esempio nell'ordine dei giornalisti degli avvocati e dei magistrati, nel 2008, si sono poi dopo rivelati decisivi gli interventi di questi poliziotti in borghese che all'interno delle stesse manifestazioni o delle assemblee che si costituivano riportavano appunto notizie su personalità di spicco all'interno delle mobilitazioni, eccetera. Quindi il ruolo della polizia in realtà è un ruolo che è stato sempre pesante e questo dovremmo vedere adesso che ruolo ha, perché sappiamo che per esempio Ben Ali aveva dimissionato per primo il ministro dell'interno, che era appunto il capo della polizia. Qui dovremmo vedere adesso, nella situazione di incertezza generale che si sta producendo in Tunisia negli ultimi giorni, quale ruolo deciderà di avere la polizia, i servizi decideranno di avere la polizia e i servizi segreti. Certo. In questo quindi si avvicina un po' più, diciamo, al modello dei paesi europei, dove sì, più che l'esercito contano, certo, le forze, diciamo, militari, però più dal punto di vista della polizia e soprattutto dei servizi segreti. In questo sembra veramente un paese modellato, sì, sì, dagli, sì, europei sulla questione. È molto diverso dall'Africa subsahariana, molto diverso dall'Africa, ma anche, diciamo, dall'Egitto, ma anche, certo, dalla stessa Algeria, dove i personaggi vengono comunque venivano dall'esercito, perché l'esercito aveva svolto il ruolo di liberazione nazionale. Quindi, ecco, io direi che appunto questo quadro molto chiaro che hai fatto, appunto, direi di fermarci qui e proporre delle, come dire, delle linee di interpretative che poi svilupperemo prossimamente, sia per capire gli eventi di questa sommossa, di questa vera e propria, per ora si può anche definire un inizio di insurrezione per le forze in campo, certo, e quindi delineare un po' le linee, diciamo, di interpretazione che potremmo dare seguendo gli avvenimenti, e quindi per, diciamo, rimandare agli appuntamenti. Ricordiamo che sabato prossimo ci sarà un'altra trasmissione di questa, dopodiché da sabato prossimo la faremo ogni 15 giorni, cioè un sabato sì e un sabato no. Poi vedremo se le vicende chiaramente incalzano. Assolutamente, ovviamente non c'è problema. Il telefono. Siamo ben lieti di poter continuare a parlare. Ci mancherebbe, appunto, del ribellione e dell'insurrezione. Anche perché, appunto, diceva in un articolo molto breve, perché credo diceva Michele Giorgio oggi, a proposito, cioè lui dal suo punto d'osservazione in Palestina, diceva, potrebbe essere l'inizio di un effetto domino di tutti i satrapi, che in realtà sono i satrapi, sì, questi soggetti, soprattutto si riferiva al Medio Oriente, alla Giordania, alla stessa Egitto, cioè Mubarak è veramente questo colosso di pietra che però con i pietri d'argilla può avere i pietri d'argilla, certo, per una realtà come quella egiziana, che appunto ci entreremo in merito prossimamente. Ecco, quindi se volete descrivere, diciamo, sì, i punti di interpretazione per la prossima trasmissione, così allertiamo anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sì, di, diciamo, di andare un po' a leggere alcuni articoli, sì, altri meno. Perché... Allora, anzitutto, bene, questa prima trasmissione, spero vi abbia interessato, l'importante è comprendere come nella realtà del Nord Africa, come poi vedremo anche nella realtà dell'Africa subsahariana, vi sono delle prospettive di mobilitazione che purtroppo, almeno a mio avviso, sono state troppo spesso, per troppo tempo, ignorate. Ci si è troppo spesso soffermati su alcune categorie di analisi che non fanno bene né a noi né a loro, come quello del concetto di conflitto etnico, appunto religioso, questo spauracchio dell'Islam, no? Vi sono in realtà dei fenomeni che si stanno sviluppando, ricordiamo per esempio anche appunto le ultime vicissitudini in Nigeria, in Sudan, come anche appunto in Africa del Nord, ricordiamo le manifestazioni che ci sono state in Egitto negli ultimi tempi, come anche l'Algeria, che non dobbiamo dimenticare, la Costa d'Avorio. Quindi vi sono dei processi in corso che vanno spaccatura del Sudan analizzati, assolutamente sì, assolutamente sì. Perché questo? La prospettiva che vorremmo adottare noi, almeno una cosa appunto di cui abbiamo discusso già in passato, è che è l'unico modo, un approfondimento di queste realtà e di queste dinamiche per comprendere anche e soprattutto quello che ci può circondare con la presenza di una migrazione che oggi in Italia sta diventando e può diventare un soggetto politico, trasversale naturalmente, ma che per meglio, per essere avvicinata da noi, tra virgolette, occidentali, deve essere principalmente e come presupposto conosciuta, quindi un rapporto di parità vero con queste forze e per una vera comprensione anche delle dinamiche che queste forze vogliono portare avanti molto spesso in Europa, non può prescindere dalla conoscenza delle mobilitazioni e delle storie di resistenza che queste forze hanno e queste popolazioni hanno avuto nel continente africano. Certo, e quindi principalmente noi cercheremo anche di mettere in evidenza, come dicevamo prima brevemente, quali sono state quelle cause, senza soffermarci troppo appunto su discorsi politici e categorizzazioni che adesso cerchiamo comunque di superare, che hanno portato comunque alla spartizione del continente africano, però con una diciamo attenzione principale a quelli che sono stati poi i movimenti di liberazione nazionali che, come che ricordiamo comunque oltre al Nord Africa hanno interessato comunque l'Africa subsahariana, l'Angola, il Mozambico, l'Eritrea, insomma sicuramente abbiamo un vasto campo di discussione e poi quindi a approfondire i discorsi transnazionali che si sono prodotti in Africa, autenticamente cioè, tra virgolette africani, nel senso che non per forza sono nati da una emulazione delle pratiche di lotta europee. No, assolutamente, no? Sicuramente hanno alcuni leader africani hanno subito una notevole influenza, perché comunque cioè, ricordiamo che la loro istruzione molte volte proveniva comunque da ambienti europei, però sicuramente molti di loro hanno avuto la capacità di creare discorsi originali. Poi ne tratteremo, ma i tentativi di auto-organizzazione, di autogestione del primo periodo algerino, del post-rivoluzionario, ma anche i tentativi purtroppo abortiti nel sangue di Lumumba ai tempi del Congo, insomma, sono stati fatti molto interessanti e molto diversi dalla dinamica europea, purtroppo naufragati nel sangue perché diciamo, l'intervento imperialista ha stroncato, che però probabilmente è un'ipotesi, hanno radicato nel sottosuolo di questi paesi degli elementi che prima o poi possono anche spuntare, la speranza. Quindi, noi vi ringraziamo Serena, ringraziamo Anthony per questo vostro contributo, ci vediamo sabato prossimo sempre alle 11, sempre alle frequenze di Radio Onda Rossa. Va bene, grazie. Grazie. Ciao. Ciao.